Amica stupida, non faccio che piangere. Tra queste mura di cartone, i sogni di plastica che bruciano in fretta, lasciando solo l'amarezza. Ma se il vento tace, no, non più lacrime. Clean.